Poiché tutti sbagliamo in molte cose e in molte maniere, devo confessare che anch'io ho sbagliato. Spesso nel mio rapporto con il prossimo, non ho avuto sempre quell'accortezza che dovrebbe caratterizzare un figlio di Dio, e questo l'ho compreso maggiormente quando ho considerato l'atteggiamento che ha avuto Paolo nei confronti dei credenti di Corinto. Ora io, fratelli, non ho potuto parlare a voi come a uomini spirituali, ma vi ho parlato come a dei carnali, come a bambini. In Cristo. Vi ho dato da bere del latte e non vi ho dato del cibo solido perché non eravate in grado di assimilarlo, anzi non lo siete neppure ora perché siete ancora carnali. 1 Corinzi 3 1 a 2. L'Apostolo Paolo aveva evangelizzato gli abitanti di Corinto e da questa testimonianza era nata una chiesa fervente nello Spirito. I Corinzi amavano il Signore, i suoi doni, una vita abbondante, condotta dallo Spirito Santo, ma avevano un punto debole, non maturavano nella conoscenza. Avevano zelo da vendere, ma era disordinato, non guidato da una maturità spirituale prodotta da una adeguata conoscenza della parola di Dio. Questo limite dei Corinzi ha impedito Paolo a parlare come avrebbe voluto, a spiegare chiaramente tutto il pensiero di Dio. Benché fosse dispiaciuto, Paolo si rese conto che per il momento non poteva cambiare la situazione e così si è dovuto adeguare alle circostanze. Ha trattato i Corinzi come dei bambini. Se li avesse trattati come uomini maturi e spirituali, essi non avrebbero compreso e senz'altro li avrebbe offesi. Se nel trattarli adeguatamente come bambini veniva già giudicato, 1 Corinzi 4:3. Cosa sarebbe successo se Paolo li avesse trattati come uomini maturi? Trattare una persona già adulta fisicamente come un bambino non è facile. Prima di tutto bisogna che si prenda atto che questa persona non è maturata psicologicamente se il suo parlare e il suo giudizio saranno tipici del bambino. In seguito occorre decidere di volerla trattare come una persona non adulta. A questo punto vi sono altri due passaggi prima di arrivare a trattare una persona adulta. Come un bambino. Avere il coraggio di trattarla come un handicappato e essere in grado di farlo. Come si nota, non è cosa da poco trattare un adulto come un bambino. Considerando il mio passato, ho l'impressione di aver commesso l'errore di aver trattato dei bambini come degli uomini. Ripeto, un errore forse comune a molti, perché ognuno di noi misura gli altri sulla propria metrica personale. Normalmente, quando si diventa adulti, si trattano gli altri da adulti senza tener conto della loro maturità psicologica o spirituale. E, normale, fa parte della convivenza, ci si rende conto di aver sbagliato solo quando la reazione della persona non è da adulto ma da bambino, quando poi la situazione diventa critica, ormai è tardi, l'errore è commesso, non vi è stata abbastanza accortezza o valutazione. Di questi errori ne ho fatti molti. Mi trovo ad esprimere la mia aperta e sincera opinione sulla parola di Dio con qualcuno senza sapere e rendermi conto che li sto mettendo in crisi. Quando ero fidanzato ho fatto un regalo con tutto il trasporto e l'affetto di un innamorato alla mia fidanzata, senza prevedere che questa mi avrebbe trattato e detto delle parole poco piacevoli. Di recente ho detto privatamente a qualcuno, in una serena conversazione, una sua mancanza che lo limitava ad una vera comunione con gli altri, per poi sentirmi rinfacciare in pubblico quello che per me era stato un atto di coraggio, di amore e di franchezza. Sì, ho sbagliato in molte cose e in molte maniere. Con questo non voglio dare l'impressione che sono sempre gli altri ad essere immaturi. Visto che, come tutti gli uomini, non sono nato adulto, anch'io a volte mi sono comportato da bambino. E così, se non è stata la saggezza divina, all'età mi ha insegnato, se non costretto, a trattare certi adulti come dei bambini. Non ci sarebbe nulla di male se non tenessi in considerazione come io tratto i bambini. Quando i miei nipotini di pochi anni disegnano e mi chiamano per mostrarmi con orgoglio il risultato del loro lavoro, nell'osservare quegli scarabocchi esclamo: "Che belli! Bravi, siete stati proprio bravi!" Il loro viso si illumina e aspettano ancora da me altri complimenti. "Che cosa avete fatto?" gli chiedo allora con il tono di chi è interessato al disegno. "Io ho fatto un cavallo!" esclama subito il primo. "Invece io ho fatto una casa!" esclama ancora più orgogliosa la nipotina più piccola. Dopo aver fatto ulteriori apprezzamenti sul disegno, sulla loro volontà e impegno me ne vado, pensando. La mia è stata una recita, lo so, ma una santa recita, una doverosa recita, perché se avessi valutato il disegno per quello che era. Ma ho davanti dei bambini, ed è giusto, normale, è doveroso comportarsi così. Con i bambini occorre recitare, incoraggiare, valutare sempre positivamente. Essi non conoscono altro linguaggio, altri atteggiamenti. Per aiutare dei bambini, occorre diventare dei bambini, parlare come dei bambini, avere il loro tono e, meno male, Dio ha dato soprattutto ai nonni questa inclinazione, compreso me. Se questo metodo funziona con i bambini, ho notato che funziona pure con gli adulti bambini. Quando mi trovo con certe persone, non espongo più liberamente il mio pensiero sulla parola di Dio. Anzi, ad una loro eventuale esposizione, approvo e dico bravo, anche se quello che sta sostenendo la persona ha delle grosse lacune di ermeneutica e di dottrina. La mia opinione sarebbe considerata un'offesa alla sua sana dottrina, e lui, sentendosi solo approvato e considerato in ciò che è giusto, continua tutto contento il suo cammino. Quando converso serenamente con i fratelli in fede, sono prudente nell'invitarli a migliorare la loro vita cristiana. Casomai approvo quello che fanno di giusto, quello che dicono di vero, vedo sempre solo i lati positivi, li incoraggio ad andare avanti così. Questo atteggiamento non crea nemici, rivali, non suscita risentimenti, anzi. Addirittura si è apprezzati, considerati, creando uno stuolo di amici, ovviamente immaturi, questa purtroppo è la realtà. Paolo scrisse, non ho potuto, sì, ci sono situazioni che si vorrebbe, ma non si può, recitare. Non dire, non fare ciò che si riterrebbe opportuno, spesso costa sofferenza e tanto amore. Trattare degli adulti come bambini non è ipocrisia, ma spesso è una inevitabile conseguenza di chi vorrebbe aiutare, ma non può. La convivenza cristiana è già difficile per sé, e se a questa si aggiunge l'immaturità psicologica e spirituale, si comprende la ragione di tanti disaccordi e divisioni. Come una catena è forte in proporzione al suo anello più debole, così è della convivenza. Sono i deboli, gli immaturi, i bambini in Cristo che stabiliscono il livello spirituale di una comunità, di un rapporto fraterno e umano. Le persone mature e adulte spiritualmente e psicologicamente non possono fare altro che sopportare i deboli. Romani 15, 1. Aspettare che queste escano fuori dalla loro infanzia per poter proseguire assieme a loro. Diventare adulti significa cambiare. Se essere umani significa cambiare, diventare adulti significa cambiare spesso. Nella parola di Dio leggiamo che quando Esaù invitò suo gemello Giacobbe a seguirlo, questi rispose che non poteva, perché aveva dei fanciulli di tenera età e del bestiame che allattava. Perciò, se li avesse fatti strapazzare anche un solo giorno, tutte le bestie sarebbero morte. Genesi 33, 16. Ogni comunità è costretta ad andare al passo dei più deboli, è frenata nella corsa verso il premio per la debolezza di alcuni. Ho assistito a degli incontri dove fratelli e sorelle hanno bocciato delle bellissime proposte solo per questioni di ristrettezza mentale, e come se ciò non bastasse, il tutto condito con un'aria di spiritualità supportata da una poderosa conoscenza biblica. Ma le conseguenze non si possono evitare. Alcune coppie di sposi misero in ginocchio la comunità di appartenenza di 100 persone, solo per un loro punto di vista, espresso in un modo poco onesto. La Chiesa con estrema sensibilità si adeguò per non scandalizzarli. In seguito però una coppia perse la fede, un'altra approdò in un'altra religione, l'altra trovò rifugio in un'altra comunità. Si dice che viviamo nell'epoca matura dell'umanità. Mi chiedo in che cosa. Se per maturi si intende costruire grattacieli, aeroplani supersonici, navi megalitiche, missili e astronavi, allora l'uomo dimostra ancora di più di essere infantile. Una persona diventa adulta per natura e, a meno che non sia normale, è capace di lavorare, costruire e generare. Ma mai come oggi l'uomo è violento. assetato di potere e di denaro, adultero, omicida, vendicativo e formalmente religioso. Queste espressioni non fanno parte della maturità di una persona, maturità che pochi hanno la lucidità o il coraggio di pagarne il prezzo. E la Chiesa, che spesso segue l'andazzo di questo mondo, non si accorge di seguire le sue orme. I credenti sono indubbiamente più istruiti di 100 anni fa, ma sono impreparati alle offese, ai torti, alle riprensioni, alle vendette, alle ingiustizie. Se l'intero processo di maturazione dipende da come reagiamo alle difficoltà, alle provocazioni della vita, allora le divisioni e contese sono segnali preoccupanti. Come bambini, i credenti si aspettano solo approvazioni, consolazioni, applausi, incoraggiamenti. Sono insofferenti nei confronti di chi ha un'opinione diversa o ha una sana alternativa, non sopportano più le riprensioni, le disapprovazioni. Eppure, come sta scritto, chi odia la riprensione è uno stupido. Proverbi 12:1. Oggi si vive all'insegna degli applausi, di chi è sempre positivo e non contraddice abilmente nessuno. Sembra che il vanto più alto sia quello di andare d'accordo con tutti, anche se non bisogna mai dimenticare che il carattere di una persona si riconosce dai suoi nemici e non dagli amici. I predicatori del Vangelo si guardano bene nell'urtare gli ascoltatori promettendo loro pace, benessere, prosperità, felicità, armonia, senza prima aver detto che sono persone malvagie per natura, perdute, lontane da Dio. Il loro è un Vangelo senza sofferenza, una resurrezione senza morte, una testimonianza senza persecuzione, una parola senza silenzio, un grido di gioia senza prima un'angoscia. Distribuiscono oppio spirituale, rendendo insensibili gli uditori verso un vero ritorno a Dio. A loro possono essere applicate le parole del profeta Geremia: «I tuoi profeti hanno avuto per te visioni false e insensate. Non hanno messo a nudo la tua iniquità, per allontanare da te la cattività. Essi hanno proferito per te profezie false e ingannevoli». Geremia 2:14. È evidente che dobbiamo essere sempre positivi e cercare sempre la pace, ma secondo le scritture, questo non deve essere lo scopo del credente. Lo scopo di chi ha posto fede in Cristo deve essere quello di fare la volontà di Dio, di costruire dopo aver sradicato e demolito ciò che è sbagliato. Geremia 1:10. Il credente sarà ecumenico ma non ecumenista, sarà paziente ma non invertebrato. Sarà comprensivo ma non accondiscenderà tutto. E questo è un atto di maturità. Sono i bambini che sono sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina, Efesini 4:1-4, che seguono facili entusiasmi ed emotività spirituali fine a se stessi. Oggi vi è la corsa alle emozioni nel campo della fede, senza rendersi conto che è proprio su questo che giocherà l'Anticristo, 2 Tessalonicesi 2:9. Più passa il tempo e più mi rendo conto che la vita cristiana normale è normale. Essa scorre come l'acqua, lenta e silenziosa. Se lo scorrere di un fiume non è silenzioso, è perché vi sono forti pendii o contrasti nel terreno. Tutti conosciamo il rumore che produce una cascata. Esso è il risultato di un contrasto. E più forte il contrasto, più forte sarà il frastuono. La mia modesta esperienza di cristiano mi ha portato più volte a constatare che gran parte di coloro che cercano forti emozioni spirituali hanno toccato bassezze morali. Più in basso si è caduti, più si cercano altezze spirituali. La legge della compensazione è valida anche nel campo spirituale. Gesù stesso la riconobbe quando disse: «Colui al quale poco è perdonato, poco ama», Luca 7:47. In un certo senso non vi è nulla di sbagliato per queste persone attendere a forti emozioni spirituali, ma quando queste sono lo scopo della vita, sono controproducenti. Le emozioni sono un dono di Dio che il diavolo può trasformare in trappole fatali. Galati 5:22. Di questi 9, una vita condotta normalmente dallo Spirito Santo non conduce necessariamente a grandi vette, ma produce giornalmente i suoi frutti: amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine e autocontrollo. Frutti dello spirito, 8. Indiscutibilmente sono caratteristiche di una persona matura psicologicamente. Un bambino pensa solo a se stesso, non sa gioire nelle difficoltà, non è sereno se non in un contesto normale, non ha pazienza quando le circostanze sono avverse, è gentile solo se viene trattato bene, è buono quando c'è, è interesse, è mansueto quando le situazioni sono conforme ai suoi punti di vista, non ha autocontrollo. Realizzare esperienze particolari nella fede per poi vivere giornalmente come dei bambini è una tragedia che disonora il nome di Dio, che è di scandalo a tutti. Si è peggio dell'incredulo. La meta del cristiano non è vivere lo straordinario, ma fare le cose ordinarie in modo straordinario. Bambini si nasce, adulti si diventa. Nascere bambini è una legge, diventare adulti è una scelta e un impegno. Tutti nascono maschio o femmina, pochi diventano uomini e donne. Quanti sono coloro che terminano la propria esistenza dopo aver raggiunto l'età adulta non solo fisicamente ma psicologicamente e spiritualmente? Terribile interrogativo. Eppure a tutti è data la possibilità di crescere, di amare, di fare amicizie, di imparare ad usare le cose e ad amare le persone, anziché usare le persone e ad amare le cose. Uno dei pericoli che sta passando la Chiesa è l'immaturità dei suoi membri. Non sto mettendo in discussione la sincerità della loro fede, dell'amore e del desiderio del ritorno di Cristo. L'immaturità esula dalle intenzioni e credo che sia proprio questo il motivo per cui essa rimane radicalmente salda nella convivenza fraterna. Purtroppo l'infantilismo spirituale ha una caratteristica negativa. Chi ne è vittima non se ne accorge. Non solo. Quando qualcuno con coraggio e amore tenta di far notare qualche sua anomalia, il bambino in Cristo non è in grado di riconoscere il suo stato e vede ciò come un attentato al suo benessere. La necessità di crescere nella conoscenza diventa allora indispensabile perché, è importante ribadirlo, molti errori e peccati che si commettono non sono sempre frutto di cattiveria o di malvagità, ma dell'ignoranza. Ciò che manca alla Chiesa sono convinzioni prodotte dalla parola di Dio, non nozioni. Le convinzioni nascono dopo aver pregato, meditato e studiato. Una Chiesa dove non ci è insegnamento è obbligata a non crescere. Le parole che troviamo rivolte nella lettera agli Ebrei sono più che opportune. Ebrei 5, 8-14. Gesù, benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì e, reso perfetto, divenne autore di salvezza eterna per tutti coloro che gli ubbidiscono, essendo da Dio proclamato sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec, nei riguardi del quale avremo molte cose da dire ma difficili da spiegare perché voi siete diventati lenti a capire. Infatti, mentre a quest'ora dovreste essere maestri, avete di nuovo bisogno che vi si insegnino i primi elementi degli oracoli di Dio. E siete giunti al punto di aver bisogno di latte e non di cibo solido. Chiunque infatti usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia, perché è ancora un bambino. Il cibo solido invece è per gli adulti, che per l'esperienza hanno le facoltà esercitate a discernere il bene dal male. Credenti che dovrebbero essere dei maestri sono dei fanciulli, e un fanciullo non è in grado di insegnare. La necessità più importante per chi ha posto fede in Cristo è aggiungere alla fede la conoscenza. Che l'amore sia unito alla verità, che lo zelo sia supportato dall'accorgimento e dalla riflessione. Il bambino riceve, un adulto dà. Non si può dare se prima non si è ricevuto. Non si può ricevere se non si sta alla presenza di Dio. Alla presenza di Dio si sta con una vita santa. Una vita santa si vive secondo l'etica di Dio. L'etica di Dio la troviamo nella Bibbia. Per conoscere la Bibbia occorre studiarla. Per studiarla occorre leggerla e meditarla. Per leggerla e meditarla occorre tempo, fatica, impegno, costanza. Non vi sono Ognuno di noi ha un sentiero da seguire, un sentiero di amore e di disciplina. Per quanto posso aver compreso, molti problemi della vita cristiana hanno una via d'uscita abbastanza breve. Ma di fronte all'immaturità occorre il suo tempo. Nessuno brucia le tappe perché, come ha detto qualcuno, i nostri peccati Dio li perdona, ma la natura umana non li dimentica. Essi vengono infatti memorizzati nelle nostre menti, nei nostri muscoli, nelle nostre cellule cerebrali. Occorre tempo per imparare a convivere con se stessi, occorre tempo per rendersi conto che ci sono cose che si possono solo accettare, occorre tempo per comprendere che le reazioni immature non fanno altro che scavare trincee dove l'immaturità si installa, mentre le reazioni mature producono le disposizioni psicologiche definitive della maturità. La parola tempo è ormai sconosciuta in una società industrializzata dove non vi è tempo per il tempo. Per quanto mi riguarda, non mi resta che continuare a pregare che nella sua grazia il Padre della Gloria dia lo spirito di sapienza e di rivelazione della conoscenza di Dio ai credenti e illumini gli occhi della loro mente. Efesini 1, 17-18. E questo perché lo scopo principale del cristiano è crescere nella conoscenza di Gesù Cristo, 2 Pietro 3,18. Come è scritto, non è bene per un'anima essere senza conoscenza. Proverbi 19,2. Perciò, se come bambini appena nati desideriamo ardentemente il puro latte della parola per crescere, 1 Pietro 2,2, e per essere ammaestrati, corretti, educati, 2 Timoteo 3,16, se concepiamo la via per eccellenza dell'amore non come un mezzo per la nostra autorealizzazione, e vediamo il prossimo non uno strumento ma il fine dell'amore, raggiungeremo la maturità così ambita e necessaria e noi spezzeremo il fatale cerchio dell'ignoranza che ci rende bambini in Cristo. Marzo 2004. Elro.